later, then you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli non si capisce più un accidente, Kappa e Drago stanno cominciando a rompersi le scatole. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Basta, capo, basta. Uè, polastra, ma che faccia bene? Con sbattimento, guarda, non è aria, aia! No, ma vattene via! Ma insomma, hai preso a calci il polo in sbattimento, dai! Certo, certo, un bel calcio al posto giusto nel momento giusto, è la soluzione a tutti i problemi. Basta, cosa succede? Basta! Ma perché siete così ingrugniti? No, guarda, ha ragione K, Pollo, siamo gli unici esseri umani in questa fabbrica di polli, ti basta come spiegazione? Vabbè, ma lo dite a me, scusate. Vabbè, ma chi lo diciamo? A sti polli da macello senza becco? Ho capito, diciamo a te, ma... lo diciamo. Vabbè, lo dite a me che sono qua da un sacco di tempo. E prima ero un uomo come voi, Sì, eri un uomo, però adesso mi sembri felice della tua condizione di pollo parlante. No? Felice, sono un po' in sbattimento. Però poi la prozzettina mi aiuta a tirarmi su, Il brutto è quando sei ancora uomini e tutti intorno sono polli. Infatti, dillo noi. Sì, però ai miei tempi non c'era un pollo evoluto come me a farmi compagnia. Vabbè, ma tu com'è che sei entrato nella fabbrica? Non ce l'hai mai detto poi, alla fine? No, cosa ogni cosa al suo tempo. È una storia molto lunga e adesso non ho tempo. Devo andare a ritirare la prozzettina, la dose giornaliera. E sapete cosa vi dico? Cosa? Secondo me anche voi dovreste prenderne un po'. Ma no. Dai, venite con me, ve ne faccio dare un po' no, io. No, no, grazie. Ma come pollo, no, Drago, scusa, la parrucchettina. Dai, certo che veniamo. Io non ho bisogno di farmaci per sentirmi bene. Io sto bene così, sono una persona equilibrata. Sì. Equilibrata, sto bene, non voglio i farmaci. Lui sta bene, Pollo. Lui sta bene. Sì. Sì, guarda che io li conosco bene, quelli come te. E una volta che provano, poi non riescono più a smettere con la prossima. Altro che... La vita è dura, ti fa paura, alla mattina, paroxetina. Inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina paroxetina. La fabbrica di polli! La guerra tra gli invasori russi e i gloriosi combattenti di Turkmenistan continua senza esclusione di colpi. Le razioni K dei nostri valorosi partigiani di Turkmenistan sono state manomesse dai russi, con la sostituzione del tradizionale salsicciotto di cavallo con una salsiccia di vero suino. Per rimediare all'errore, il generale Badahari di Turkmenistan ha condannato a morte tutti i soldati che si sono nutriti di carne suina, autoriducendosi drasticamente gli uomini a disposizione, secondo valida tradizione di Turkmenistan. Ha registrato 3. Hai sentito, K? In Turkmenistan è così. Se per sbaglio mangi una salsiccia di maiale, ti ammazzano. Ligi al regolamento, come gli impiegati delle poste. I carabinieri. Ah, la sai quella del carabiniere che mangia carne di maiale per sbaglio, quando se ne accorge fa una strage di commilitoni? Ma com'è? Perché era un carabiniere islamico? Però aveva la pistola a disposizione, non sapeva cosa fare. Che cosa? Non me la ricordo più. Ma sarebbe una chiusa questa. Ma Drago? No, la faccio io la chiusa. Ronclap! Aia! Ronclap! Aia! Ronclap! La pianta! Aia! Oh! Ah. Uè, prima mi hai preso a calci tu, Ma sì, ma cos'è Ronclap? Adesso beccati questo, Ronclap! Aia! Ronclap! Aia! Sì, lui ride. No, uè, guarda che c'è anche per te. No, Pollo. Ronclap! Ronclap! Aia! Cari compagni del sindacato Peccioni Picciotti Invenzione, la produzione giornaliera di cacca sta crescendo! Bravi! Impegnatevi sempre così! che qui ci vogliono mettere i paletti per la produzione di cacca. Sì, che li mettessero i paletti. E se li mettessero dove dico io? Ma quando riguarda lo stato della mia povera salute, che Dio vi benedica, picciotti piccioni, io sto bene. Coccolone è stato solo un momentaneo calo della regione per citare i miei preferiti Pink Floyd. Allora mi raccomando, sempre tutti uniti, insieme, senza agitarsi, fermi, immobili, granitici, statici, legnosi, pesanti, presenti, sempre presenti. Passo e chiudo. Che mi sta venendo sonno, affido. Ora faccio un pisolino. Sì. Chickens eat crap. Allora, Pollastri, qui è dove mi danno la proxetina, Ah, bel posto, sì. No, attenzione, questo è il mio canale privilegiato, questa è la proxetina che mi danno in aggiunta, oltre a quella che è presente nel mangime, Ho capito. Cioè, nel pastone, voglio dire. Sì. Pastore! Tarek! Ma c'è anche Tarek, ciao Tarek! Ciao! Pastore! Ma non capisco, perché invoca sempre il bastone? Ma no, K, dice pastone. Ha fame, dice pastone, non è che è masochista, invoca il bastone, ma hai capito? Ma è un misto. Ma no, dai. Zitti adesso! Il pavone qui è sordo, Pavone! Pavone! Pastore! Ma no, trunk! Pavone! Pavone! No, niente, niente da fare, questo non sente niente, è sordo. Chi è che è sordo, Drago? Non Tarek, è il pavone che dà via la paroxetina, è lui che è sordo, a quanto pare. Non si capisce niente, questo posto è pieno di stranieri. Ah sì, anche i pavoni adesso. Sì, che poi gli stranieri già non capiscono un tubo quando gli parli la tua lingua. In più, questo qua è sordo, è pure un bamba, questo è un bamba sordo, è pure muto, ce l'ha tutte questo qua. Mamma mia, davvero. Uè, ma ci sei? Intercetti il mio sguardo? Uè! Brutto ammasso di piume inutile colorate. Adesso sei invidioso come al solito. Se lo offendi non è che ci sente di ma più. Ma tanto lo sento. Ecco, senti, vorrei la proccettina per me e anche per questi due amici miei, che sono due futuri poli. No, ma come, noi siamo due uomini presenti e anche futuri. Noi uomeremo, ecco. Voi uomerete, ecco. Essi uomeranno. Sì, tre ho detto. Tre. Non tre, capisce. Tre proccettine doppie, che poi sarebbero sei, Inutile che apri il becco tanto, sei sordo muto? Ma no, ma pollo. E meno male che non sei anche cieco, se no dovevamo farti andare in TV e alla raccolta di fondi per quelli messi come te. No, ma adesso lo senti, ma lo senti come subdolo, dice le peggio cose a un povero pavone che non può nemmeno capire quello che no, dice. No, capisce, non ti preoccupare, capisce il beccale? Cos'è il beccale? Il labiale vorrei dire. Dipende, se hai le labbra o se hai il becco, no? Io ho il becco. Ok, allora abbiamo due paroxetine a testa? Sì. Oppure è due paroxetina? A testa, non so, capisci. Avete due paroxettine a testa. Le buttate giù tutte e due insieme, senza paura. Senza paura. Due in una botta sola, così, alla prima volta. Sì, ma no, che poi il primo viaggio è sempre un po' più intenso degli altri. Appunto. Vabbè. Ecco, adesso le buttate giù e mettiamo un po' di musica adatta. Ecco. Accendiamo l'incensi. Ma. E rilassiamo. Dai, ma non è mica LSD, cioè, cos'è tutta questa messa in scena? È un antidepressivo. Rilassati, Drago, no? Te l'ho detto. Non è un antidepressivo. Ah, no, ricaptazione della... Drago, rilassati e buon viaggio. E io? E beh, buon viaggio anche a te, no? Kappa, e che la grande anima vi protegga. Che cosa succederà adesso? L'esperienza paroxetinica di Kappa e Drago produrrà un miglioramento della qualità della loro vita? Lo scoprirete solo domani a mezzanotte su Radio 3 con il prossimo psichedelico allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Stai registrando? Tarek? Tarek? Siamo in onda? Adesso?